stesso posto delle domande tante troppe. Nessuna teoria nel sistema belle pronto, nessun libro che ti dica in faccia la realtà. Noi non adiriamo, siamo ricercatori, siamo ricercatori, siamo ricercatori, siamo i ricercatori scettici e scettica. Il primo scettico, il primo scettico, il primo scettico, la scettica, la scettico lo ero. A se si sta morendo e la sua marcia realtà che svanirà. Penso che la casa di chi l'abita è un figlio e chi lo ignora. Tempio dei filosofi, la terra chi lavora, la musica sognia. Il mio ideale, l'obbligo settico, il primo settico, il primo settica, il primo settica, la settica, la settico tornerà. A se si sta tornando e la sua marcia realtà riapparirà. Accumulo coscienza e orgoglio, accumulo coscienza e orgoglio. Miscela perfetta per farmi incazzare, sono un ricercatore, conosco le mie parole. Il primo asiatico, il primo asiatica, il primo asiatica, l'asiatico. Sento, attenti, vi vedo, sento, asettica, il prima asettica, il prima asettica, il prima asettica, asettica.